prende il via anche per questa serata di martedì, il secondo appuntamento della settimana di Arden Devi in compagnia della voce di Marco Gravelli, in compagnia del nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, e naturalmente il ringraziamento in primis come sempre al nostro autore Simone. Una prima parte un po' più breve quest'oggi, perché la seconda è incentrata con una lunga chiacchierata che ho avuto la scorsa settimana insieme ad André Matos, con questo suo nuovo album, con questo suo nuovo progetto musicale. Parleremo di tante cose, di cosa è accaduto dopo gli Shaman, addirittura sono andato a ripescare del suo provino per sostituire Bruce Dickinson e gli Iron Man, insomma ce ne racconterà veramente tante di cose, soprattutto in esclusiva due pezzi acustici suonati dal suo chitarrista insieme alla sua voce, naturalmente due brani in apertura e in chiusura della nostra chiacchierata. In mezzo troveremo anche una canzone dal suo album Time to be Free. Ma partiamo invece con questo gruppo che si chiama Storm Warrior, che esce questa settimana il loro terzo album, Eden North, questo è il titolo. Loro sono in quattro, il leader e fondatore del gruppo è il cantante e chitarrista Lars Ramke, che ad oggi è anche l'unico membro originale. La band ha avuto il suo esordio nel 2002 con l'omonimo album che gli valse la partecipazione al famoso Wacken Open Air Festival. Dopo un EP nel 2004 arriva il secondo lavoro, Northern Rage, che gli permise di suonare di spalla ai Gamma Ray per tre date in Giappone, dal quale hanno registrato anche un live che vi avevamo presentato un anno e mezzo fa. Ed ora arriva questo album pubblicato dalla Docia One, si intitola Hidden North, presenta 10 brani mixate dall'esperto Pete Seal e masterizzate dall'altrettanto valido Tommy Hansen. In tema di line-up c'è da segnalare una variazione rispetto al lavoro precedente: è stato sostituito il bassista a favore di Jens Leonard degli Iron Savior. Album consigliato agli amanti del power metal. Oggi li proponiamo, loro ripeto si chiamano Storm Warrior, con il pezzo Iron Gods. si intitola Iron Gods, questo estratto dall'album Heading North, il terzo lavoro per la formazione degli Storm Warrior, con il quale abbiamo iniziato l'appuntamento di questa sera su Rock FM con Arden Davy. Il prossimo gruppo arriva dalla Polonia e si ispira nettamente ai Children of Bodom. In effetti, in assenza di un nuovo album dei Children of Bodom, ci ascoltiamo questi Made of Eight, che hanno pubblicato da poche settimane su AFM Records questo album d'esordio. Musicalmente è un heavy metal con passaggi virtuosi dal cantato in genere black. Il leader del gruppo è il chitarrista 22enne Michael. Quest'album si intitola Bullet in Your Head, si compone di 9 tracce, è stato registrato nel gennaio del 2007 e successivamente in ottobre hanno ottenuto appunto il contratto con la AFM, che lo ha pubblicato da poco. Li proponiamo con la traccia numero 2 dell'album, si intitola An Eye for an Eye. Loro sono i Made of Eight dalla Polonia. martedì è Night for Night, da questo album intitolato Bullet in Your Head per Made of Hate. Questo è il nome della band che arriva dalla Polonia con il loro album d'esordio. Andiamo invece ad un grande chitarrista, si chiama Paul Gilbert, già con i Mr. Big, con i Razor X. Ora esce sull'etichetta olandese Mascot Records questo suo secondo album tutto strumentale, quindi non vi è un pezzo cantato, è tutto un album, come succedeva diciamo nella metà degli anni 80, dove uscivano tantissimi album dei virtuosi chitarristi. Questo è il suo secondo lavoro strumentale, pezzi tutti suoi tranne uno di Johann Sebastian Bach e l'altro firmato da Elvis Costello e Burt Bacharach. Poi il resto delle composizioni sono tutte sue. L'album e il pezzo che vado a proporvi si intitola Silence Follow by a Deafening Roar. Questo è il titolo dell'album e titolo del brano. Paul Gilbert. Pezzo che apre, che dà il titolo a nuovo lavoro tutto strumentale per il bravissimo chitarrista Paul Gilbert. Arriviamo anche per questa sera all'appuntamento consueto con le Metal News. Stiamo parlando degli Scar Symmetry, pronto il terzo album per la band svedese, il titolo sarà Holographic Universe, verrà pubblicato su Nuclear Blast il prossimo giugno. I DGM, la prog metal band italiana di Roma, ha reso noto la scorsa settimana il nome del nuovo cantante. Si tratta di Mark Basile dei Break ed ex Mind Key. Jon Lande, il bravissimo cantante norvegese, noto soprattutto per aver militato con gli Ark nei Masterplan, è pronto per tornare sul mercato col nuovo album. Si intitola Lonely Are the Brave, verrà pubblicato a maggio tramite l'etichetta italiana Frontiers Record. Parliamo di un gruppo italiano, cioè la cover band degli Iron Maiden, cioè i Clairvoyants, hanno finalmente ottenuto un contratto con la Valerie Records, che pubblicherà il loro esordio, che conterà comunque canzoni proprie. Questo lavoro è stato registrato lo scorso anno presso gli Alpha Omega Studios a Como e presso i Nativity Studios in Svizzera. Il mixaggio è avvenuto alla fine qua a Milano. Ci saranno 10 brani, sono annunciati alcuni special guest. Uscita prevista per la fine dell'estate, ed alcuni brani saranno presentati in anteprima nella loro partecipazione al Festival Rock in Field in quel di Adro a Brescia e alla fine del mese di luglio. Ultima segnalazione, si parla dei Duff, la death metal band americana che aveva ultimamente impressionato con il primo album, ha scelto un nuovo cantante, si chiama Sam Zed e con lui registrerà il nuovo secondo album dal titolo The Counselors. La band è entrata in studio lo scorso weekend col produttore Jason Sekoff, che ha già lavorato con Chimaira e Trivium. Il tutto verrà pubblicato sull'etichetta Roadrunner Records. Andiamo praticamente quasi a chiudere la nostra prima parte, perché poi, come già detto, avremo André Matos con due pezzi acustici eseguiti qua dal vivo, una lunga chiacchierata con lui, un brano dal suo nuovo album uscito ormai 10 giorni fa, però lui è stato presente in promozione lo scorso giovedì e venerdì nei nostri studi. Allora continuiamo dopo Paul Gilbert, chitarrista, abbiamo Don Airey, tastierista. Questo suo album è solista, si intitola Light in the Sky. Lui è un famosissimo tastierista, ha già lavorato con tantissime band, si parla di Whitesnake, Rainbow, Ozzy Osbourne, Michael Schenker, Judas Priest, I Ten, Black Sabbath, Thin Lizzy, Metalium, oltre naturalmente ai Deep Purple. Questo album solista, come vi dicevo, si intitola Light in the Sky, dove alcune tracce sono strumentali, altre sono cantate da Carl Sentence, che ha cantato nell'album Round 13 degli svizzeri Crocus. Il pezzo che ho scelto quest'oggi è la traccia numero 6, che si intitola Endless Night, Don Airey. We'll be right back. sono molti i brani cantati in questo lavoro da solista del bravissimo tastierista Don Airey, e Light in the Sky, il titolo appunto dell'album, anch'esso come per quello di Paul Gilbert, l'etichetta che li distribuisce l'olandese Mascot Records, era Endless Night. Ed ora, come annunciato, entriamo in contatto con André Matos, con queste chicche di registrazioni acustiche che lui ha effettuato qua nei nostri studi, almeno apriremo così la nostra intervista. Poi, ripeto, a metà troverete un brano Letting Go estratto dal suo album nuovo, di cui parleremo in questa chiacchierata, e concluderemo l'intervista ancora con un altro brano acustico sempre da lui eseguito qua nei nostri studi. Eccoci nel nostro appuntamento di Hard and Heavy su Rock FM, ospite speciale, come annunciato, e questo mi fa enormemente piacere, André Matos. Ciao André! Sì, un vero piacere d'essere ancora qua e con tutte voi in Italia, e del ritorno a Italia con questo... Con questo nuovo disco. Nuovo disco. In effetti è un po' di tempo che non ci vediamo. Dal è vero, Marco, quanti anni? Primo album di Shaman. Fa cinque anni fa, io penso. Sei anni. Sei venuto a presentarlo. Poi hai fatto un altro disco con Shaman. Sì. E poi cosa è successo? Poi, dove sei andato? Poi il gruppo è separato. Abbiamo qualche problema personale nel gruppo. Capita. Cose normali. Capitano. Bueno, io penso che sempre che succede qualcosa così è molto importante da prendere una decisione, che tante volte c'è una decisione difficile e drastica. Certo. Ma una decisione molto importante per la carriera di ognuno, perché se c'è la cosa che fa il progresso sulla vita musicale, sulla carriera musicale di un musico. E dopo passato questo, buono, io ho pensato cosa fare. Esatto. E l'idea di un gruppo solista è un'idea antica, un'idea che, buono, Già con Virgo avevi in mente di fare una cosa Virgo, del genere? Era un progetto particolare. Parallelo. Non lo considero un... Infatti non esce con il nome di André Matos, ma come Virgo. È vero, perché anche se c'eri solo tu e Sasha. Sì. Però questa era l'idea di Virgo. Era un'idea di anni fa e tu l'hai avevi quelle canzoni, ti piacevano e le hai incise. È vero. Però il gruppo solista è un'altra cosa, perché io penso non è una cosa veramente solamente personale. Io non mi vedo come un dittatore, un leader. Bisogna essere un leader un po', perché aperto naturalmente, perché uno bisogna dare la parola finale la decisione finale è tua, ma questo non è una cosa dittatoriale, certo. No? è una cosa abbastanza democratica. A me mi piace molto il lavoro in gruppo, in equipe. Quindi questo disco che è uscito due settimane fa qui in Italia, l'album nuovo è Time to be Free. Anche nel titolo, è tempo di essere libero, riflette qualcosa oppure... Io penso che sì, coincidentemente riflette questo momento. Stato d'animo, Sì, perché c'è una libertazione, no, veramente dal mio passato, perché il mio passato è presente ancora su questo lavoro. Io penso che io ho rivisitato il mio passato... di una forma abbastanza ampia. Diciamo che questo nuovo disco ripercorre tutto quello che hai fatto con Angra, Shaman, con delle cose tue. Tu hai capito, ecco. Sì, però senza essere, senza stare una imitazione del passato. Sì. A me non mi piace l'imitazione, a me non mi piace la gente che ripete le formule, perché pensano che le formule va a metterli nel successo. Sì. E bueno, io penso che si li mette nel successo, è un successo che non va a tardare, non va a durare, prolungare. Esatto. È giusto cambiare, dare qualcosa di diverso, eccetera. E l'hai dimostrato forse anche prendendo due produttori in questo disco. È vero, i due grandi perché produttori. Perché Sasha ti ha sempre seguito. Due grossi, differenti anche come stile musicale. Perché Roy Zedd, io l'ho conosciuto, una volta è venuto qui con Bruce Dickinson. Bravissimo. Ha fatto una session acustica con Bruce, come hai fatto tu oggi. È un grande personaggio. Bravissima persona. Però forse, me lo dirai tu, modo differente di lavorare in studio rispetto a Sasha. Completamente. Comunque questo per i suoni che lui ha creato, che cosa ha curato Sasha, cosa ha curato Roy nell'album? Guarda, Roy ha fatto la prima parte del lavoro. questo vuol dire lui ha ascoltato le tue canzoni? Ha ascoltato le canzoni, ha cambiato qualche cosa, ha fatto la pre-produzione insieme e ha lavorato sul studio, ha fatto infatti in Europa in registrazione, o in America? In Brasile, Brasile. E America. E dopo e ha fatto tutta la registrazione e è un bravissimo perché è un specialista, certo, da suonare, da ingegneria del suo. Poi è un musicista, quindi bravissimo, ecco. Chitarrista, e incluso abbiamo composto qualcosa insieme a un brano sul sesto disco che si chiama How Long, è stato composto da Roy e noi insieme, e Roy suona la chitarra su questo brano e suona bravissimamente, perché Roy, io sembro dicere che per me Roy è come un Carlo Santana metal, perché sì. lui ha queste origini messicane, e è molto, è una persona abbastanza caliente, abbastanza latina come noi, vicino a voi, sì, quindi, sì. Certo, allora che si capiciamo molto bene, certo, e abbiamo svegliato una amistà abbastanza forte, certo, e com'è la che hai con Sasha, di una forma distinta. Finita la pre-produzione, il lavoro con Roy, sei venuto in Germania da Sasha, è vero, ha importato tutto il materiale a Germania, e questo è stato abbastanza interessante. E perché Sasha ha riascoltato tutto, sì. O sapeva già del sì. Sapeva che stavi lavorando con Roy? Sì, sì, sì, sì, perché è stato tutto preordinato. D'accordo. Sì. Perché lo che è successo è Sasha era supposto. Era impegnato in altre, già stava lavorando per questo, però okay. Sasha stava molto occupato con le sue produzioni e non aveva il tempo di seguire da andare tutto a Brasile per fare tutta la preproduzione, la registrazione, okay. Questo buono mi ha detto bisogna ricercare qualcuno per fare questo. Io coincidentemente avevo trovato Roy, sì, da un festival dove abbiamo suonato insieme in Sud America. Io ho detto a Roy che sono un grandissimo ammiratore del suo lavoro e mi piaceva fare qualcosa insieme un giorno, e mi ha detto sarebbe un vero piacere da fare questo, e buono, è arrivato quel dopo giorno. Che Sasha mi ha detto questo, io ho pensato naturalmente a Roy. Sì, e quindi da lì l'ho chiamato, le ha fatto una telefonata agli Stati Uniti, buono, stava d'accordo, stava libero per fare il lavoro, è venuto a Brasile, e a lui le piace molto il Brasile perché parla incluso il portoghese, perché la sua moglie è brasiliana. Bene, abbiamo scoperto anche questo. Ecco, però l'album quando l'hai registrato? Perché ho letto che in Giappone è uscito l'estate scorsa. Sì, agosto. Quindi era pronto in primavera del 2007? Pronto luglio. Luglio del luglio. 2007. Il mercato non anniversario ancora. In Giappone è stato ai primi bravissimo, posti bravissimo. Per un mese intero. Hai fatto un tour anche. Un festival. Il più grande Giappone si chiama Loud Park. Con vari artisti, 20.000 persone in Tokyo, i 10.000 in Osaka. Ha un festival che è itinerante. Due date. Sono le due città simultaneamente. Già ti conoscevano dai tempi di Angra, è vero. Certo. È stato un rincontro con il pubblico, giapponese che mi piace moltissimo. Però, come hai creato? Tu hai detto che è un lavoro tuo solista, ti senti il leader ma aperto, hai tanti musicisti che hanno suonato nel disco, sono gli stessi che poi hai portato in Giappone e porterai? Sì. Per questo io lo considero un gruppo. Ecco, non sono special guest musicisti. Io potevo fare una cosa così potevi trovarti un altro nome, creare nuovo di un gruppo, per dire, però sì, questo non mi interessava, esatto, perché già è passato mie esperienze con le altre band, tre gruppi, esatto. Un gruppo di più sarebbe qualcosa un po' confusa nella testa della gente. Certo. Hai preferito usare quello che è il tuo nome? Sì, perché un gruppo di più, buono, la gente poteva dire, buono, adesso viene André con un gruppo più, E quando sarà questo gruppo anche finito? E questo io non voglio, perché giusto, giusto. È una cosa che è venuto adesso per restare. Certo. E da Andre Matos io non mi posso separare. Certo, no, questo proprio, penso proprio di no. Letting go. I musicisti che sono con te, alcuni sono li conosciamo già, sono, alcuni li conosciamo. Luisi Ugo Mariuti, buono, da Sciamani, hanno fatto da la tua Angra, storia, esatto. Con Luisi io già lavoro. Anche, anche il tastierista che era con Fabio voi, Ribeiro, è anche stato... Dal vivo suona con... Dal vivo, dal principio d'Angra. E André Hernández Zaza, sì, il chitarrista, bravissimo. Che oggi le canzoni acustiche che sentite, c'è lui e la chitarra. Sì, Zaza è per la prima volta in Europa, sta affascinatissimo per tutto. È emozionato. Ha fatto il foto del Duomo di Milano. Ho visto, è emozionato, sì, emozionato. Sì, emozionato. Sì. E buono, lui è bravissimo chitarrista in Brasile, uno delle più belle, più grandi. Sì, sì. E abbiamo suonato insieme in Angra anche. È stato il primo chitarrista di Angra. Però prima, non c'è sul, prima che registraste prima il di Angels Cry, del primo disco. Del disco. Però alcune allora, canzoni le avevate già fatte con lui. Alcune canzoni? Sì, del sì, primo sì, disco? Sì, sì, i lavori di chitarra. Le avevate fatte insieme. C'è molte cose che ha fatto Zaza, anche però Zaza non hai registrato. Non hai registrato. E è un piacere da ritrovare Zaza. Era un'idea che avevi da tempo, che io pensavo sì, di coinvolgerlo, un dia sarebbe bene da fare qualcosa con lui, insieme con lui. E buono, ha successo questo. E poi c'è un ragazzino alla batteria. Sì, sì, sì. Eloy Casagrande, questo è uno dei più nuovi talenti. Nuovi talenti da Brasile, è veramente un fenomeno. Giovanissimo. Ronaldinho Gaúcho da batteria. 17 anni, eh? 16 anni, pensate un po'. Quindi questi musicisti saranno comunque con te dal vivo. Sì, sì, sì, okay. sicuramente. Ora l'album è uscito in tutta Europa. Non per niente André sta facendo un tour Francia, Germania, Italia, Grecia. Tour abbastanza pesante per promuovere il disco, ma con delle session acustiche. Quindi ogni posto non sta dietro un microfono come sta facendo adesso con noi, eccetera, ma suona. Quindi questo è bello perché un artista. Questa è la musica vera, la passione. Sì, perché c'è molti gruppi, molti musicisti che, buono, sapeva suonare da vivo elettrico con tutto l'apparato, certo, con tutto lo scenario, fonici, tutte le effette, però da fare una cosa acustica, veramente acustica, una chitarra e voce, non è facile. Non è facile. Non è facile per niente. È abbastanza difficile e rischioso. Sì, sì, sì. Rischioso. È molto esposto. Molto esposto perché la gente dice: ah ecco, sì, guarda, sì, ascolta. È per i veri musicisti. Il problema è che la gira promozionale che facciamo adesso è molto, come si può dire, molto stressante. E anche per la voce ogni sì, giorno bisogna cambi, stare, inverno, la temperatura. Abbiamo arrivato a Francia, abbiamo fatto tre concerti a Francia in due giorni, fuori tutte le interviste, tutto il giorno lungo. Giornata piena. È una giornata senza Finissimo. Dormire, noi dormiamo due ore aeroporto, per aeroporto, interviste, tutto, dormivo sull'aereo. Come adesso, tra parentesi. Ma però va bene, ma mi fa ti piacere. Piace. Mi fa se piacere. Lo fai è perché ti piace. Sì, moltissimo. E da trovare gente come tu è grazie, sempre un piacere. Piacere. Ecco, dal vivo quando arriverai sul palco? Festival estivi per l'Europa oppure aspetti il periodo autunno? Io penso sì, io penso dopo l'estate. Dopo l'estate. Sarebbe il periodo più buono per fare questo, perché il disco è uscito solamente adesso. E bisogna fare un po' di promozione di più, la gente impara le canzoni, sì, sì, eccetera, per incorporare arrivare un po' più meglio. Quindi di sicuro, se non per la fine 2008, inizio 2009, forse ci sarà. Sì, forse. No, no, è il 2008. No, sicuramente. Inverno. Sicuramente. Allora, ok. E dopo l'estate. Dopo l'estate. Da settembre, ottobre, sì, sì, sì, troverete. Forse, magari facciamo qualche festival. Però, però questo può il vero spettacolo che preparerai, suppongo, dovrai sicuro, preparare sicuro, quale tipo di completo, scaletta fare, eccetera. Due ore di concerto, con tutti il nuovo album più sì, le tue vecchie canzoni. Sì, esatto, i classici, no? Certo, ci saranno magari ospiti in qualche serata, chi lo sa, è questo vero. Devi ancora valutarlo. È vero. Però in questi anni, oltre al disco nuovo, ho letto che hai fatto una cosa secondo me bellissima. È molto difficile interpretare una delle più grandi opere rock insieme a Jesus Christ Superstar, Tommy degli Who, portarla nei teatri in Sud America con un'orchestra sinfonica di San Paolo. E quindi tu eri Tommy. Quindi io ero il Tommy. Tommy, anche attore. Non anche solo attore cantante. Per la prima volta. Hai dovuto fare un po' di lezioni? Sì, sicuro. Aveva un tecnico, un maestro da teatro. Per, quindi era una compagnia teatrale? Una compagnia operistica. Operistica. Operistica che ha fatto questa opera rock. Bella. Bellissima. La musica. Peccato che è una cosa incredibile, è una cosa bellissima. Quindi erano tutti in teatri, perché se c'è l'orchestra sinfonica. Sì, vero. È un teatro molto famoso a São Paulo. Si chiama Memorial dell'America Latina. È grandissimo, l'acustica bellissima, un progetto di Oscar Niemeyer, il grande architetto brasiliano. E hai fatto più di una replica? Tre serate. Bello, emozionante. Hai provato una cosa diversa anche questa. Emozionante di più, vero. Moltissimo emozionante. Per me è stato forse la più forte esperienza della mia carriera. Della tua carriera da artista. Più di quando hai fatto i provini per sostituire Bruce Dickinson. Tanti, tanti anni fa. Bene, che... sì. Quando, sei arrivato quando questo vicino, è successo, io ero abbastanza giovane, 21 anni. 21. Era dopo il Viper. Sì, era dopo il Viper, esatto. Non aveva ancora registrato il primo album Angels Cry, solamente una demo tape per Angra. E buono, Bruce ha lasciato Iron Maiden e la compagnia EMI ha ricercato gente su tutto il mundo. Sì. In Brasile mi hanno ricercato e mi hanno domandato i materiali. E buono. Io non pensavo che sarebbe possibile d'essere veramente il cantante perché Aero. Facciamo così, siamo giovani, no, gli onesti sinceri. Anche Iron Maiden è un gruppo proprio britannico, è vero. Io non lo vedo un cantante brasiliano, un cantante italiano, un cantante sai però francese. Cosa mi viene in mente? Conosci Journey? Perché i Journey sì Separate sì, Ways sì. L'hai sì. Anche cantato. Abbiamo fatto... adesso hanno preso, lo sai, il nuovo cantante dei Journey? Sì, è filippino. È filippino, no? È filippino. Sì, questo è interessante. È una cosa strana. Interessante. Forse adesso queste barriere, queste adesso... mentalità cadono, è più aperta. E chi sì. lo sa? Però lo all'epoca... Sì, Iron todavía lo vuole, sì. Io sono... No, no Bruce sta sì. bravissimo. Giusto. Bene. Però allora. Io è arrivato, sì, al terzo. Terza fase. Entri le tre finaliste. E questo era lo che io volevo, perché io volevo sapere se dove io potevo arrivare. E questo ti è servito. Questo è stato per già la tua per carriera. Me un premio. Certo. Una premiazione. Ecco, abbiamo scoperto anche questo... retroscena, è vero. Aneddoto con Andrea. Però se questo aveva successo, io non lo so. Non sai la tua carriera, lo che succedeva nella mia vita. Ossia, sì, questo è vero. È stato anche importante che questo non è successo, perché così io... Hai fatto la tua vita, la tua sì, carriera, il tuo guru, le tue band e adesso il tuo nuovo progetto. Sicuro. Le liriche le hai scritte tutte tu? Delle... Sì, io avevo... Sono tue storie che avevi già sì, da tempo? Sì, oppure canzoni tutte nuove per l'album? Tutte nuove. No, quasi. Qualcosa, ecco. Una canzone è una canzone che è una reedizione, di una dalla mia prima canzone, ah. Che si chiama Moonlight. Sì. È una canzone che sta su questo disco. È su questo. Moonlight. Infatti, eccolo qua. Mi sono portato da casa Theater of Fate, il sì. secondo album da Viper. Dei Viper, della tua prima band brasiliana. Sì, io avevo... Dove qua avevi 17 anni. Sì, 17 anni. E qui c'è il pezzo Moonlight. Moonlight, che okay. è stato il primo pezzo che io ho scritto dalla mia vita. Allora, io pensavo quando io faccio il mio primo disco solista, questa canzone simbolicamente va a essere là. Riadattata, risuonata. Ma naturalmente, certo. Perché oggi io tengo un'altra testa, un'altra maturità. Certo. E questo fu il desafio, questa fu la cosa buona, perché è stato un vero desafio da fare la stessa canzone. Sì. Era come, comunque, io ho scritto un libro qua, sì. E ho fatto il capitolo finale qua, giustamente dopo qua. Dopo tot di anni, e dopo d'anni. Tutta questa esperienza e tutto quello che ha passato, è stato bellissimo fare questo. Il Roy Z ha capito molto bene il spirito. Il tuo spirito. Sì, cosa da questa fare? Cosa. Esatto. E ha veramente contribuito moltissimo con questa idea. Bene. Mi ha detto Roy a questo momento, mi ha detto questa canzone forse la gente non lo va a capire come pensiamo noi, però è la canzone più forte del disco. Del disco. Yeah. Bene, allora ascoltatela. Io, André, ti ringrazio. Spero non passino altri 5 anni. Quando verrai a suonare no, dal vivo, Marco, ti aspetto. Sarei del ritorno qua in Italia. La prossima volta ci sarà anche Claudia. So che volevi salutare. Sì, saluti a Claudia. Okay. Sì, claro. E a tutta la gente, che ti aspetta, ti vuol bene. Sì, quindi... sì, molte grazie per la recepzione qua in calorosa, Italia. Sei sempre bravissimi gli italiani, io amo molto l'Italia. Il pubblico italiano. Grazie Andrea, alla prossima. Grazie. Ciao, ciao. God, I used to be free.